tu devi sapere che la cartina è divisa in dipartimenti, se non lo sai è così. E un dipartimento, la Sardegna ha un numero 16. Io faccio 10-27, non mi ha fatto un pezzo di dipartimento. Io ho il mio coso, JN40 Golf Radio, da Radio Amatore. Capito? E Locator, il mio è Japan November 40 Golf Romeo. Non ho mai fatto io collegamenti 27. Vabbè, ci sono anche gente. La sai tu che mi ha fottuto. Già, non faccio collegamenti. Visto che io quando c'è propagazione che entrano a rompere le balle. Mi rilancio e non rispondo, ma... Aspetta che sto facendo il collegamento al... Ho un altro microfono che sto saldando, aspetta. Certo che collegamenti non ne fa. Collegamento a un microfono, microfono. Eia, collegamento al microfono per la radio che è arrivata, là, che c'avevo lo spettone, non mi piace. Sto facendo il collegamento, sto invertendo due fili azionati. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna fa chiamata, cambio. Ho lo spazio lì per quello, Claudio. Figli del popolo, Robby ci sei? Robby, c'è un sacco di gente si sente, ma sono addirittura modulazioni che vengono da fuori, non manco dall'Italia, dall'estero addirittura. A Riccardino ci sei? Riccardo! Qui c'è lì della Sardegna che ti fa pelo, ici la stazione del Tagomeo della Ville Sassalina. Attenzione alla frequenza, attenzione alla frequenza, lì della Sardegna di Portimone, sì, sempre. Italy, Nord Sardegna. Attenzione alla lì della frase, si qui c'è l'Italy, Nord Sardegna. Quello che sono le porte, si lo vuole con la casa. Frontalmente, non è giovane di girartelo, questo si allinea. segnale sotto la pancia. Te lo ricordi quello che aveva Sandro Tigre, una cosa del genere? Sì, aveva messo la ventola perché scaldava la moto, aveva quel difetto, che ricordo. Ehi, quella aveva il difetto, ma i tali difetti non ha, ti preoccupa, questa non scalda proprio niente, è ghiacciata, fredda, già va bene, così ho staccato anche quel B300, non serve a niente, radiolina solo, e questa fa tutto, banda laterale da 220 watt, già va bene. E lei me ne dà potenza minima 10-50 modulati, potenza massima in HI Power da 80 watt e 120 modulati, Naim 130 top. Sì, banda laterale invece è una taguba, vabbè, ma non ce ne frega niente, è solo banda laterale. Mi interessa sistemare questi microfoni, cazzo, già non ce n'è uno che non va bene in questi microfoni. Alla grande, veramente. Meglio così. Comunque qua c'è uno spazio io, che è uno spazio che c'è tra il Magnum e il Galaxy. C'è un ripiano libero. C'è, non te ne fai nulla. Cazzo, non te ne fai nulla. L'ho preso apposta per avere un baracchino serio. Ti ho mandato il prezzo a vedere quanto l'ho pagato, non hai visto? Non le bucce di gioco a me, se non ne voleva 300. Va bene, dai. Stazionari. Zero i stazionari, va giù. Va bene. K di Rosmetro, dai. Adesso ti dico la cattiveria, ma non hai detto che non ti compravi più nulla? No, ti ho detto che devo fare una stanza apposta, solo baracchini. Questo è l'unico che non è vintage, però non è di adesso, Questo non è un baracchino di adesso, però non è vintage, mentre gli altri devo farli tutti vintage. Io a KF non ne sto comprando, a KF non me ne fotte più nulla. Quelli non li stanno più fabbricando, ma c'è qualcuno che li vende ancora, non li stanno più fabbricando, l'ho letto su Roger K. È un apparecchio che non stanno più fabbricando, però ce ne sono ancora in vendita in giro. Non stanno più fabbricando, che Andiscido costava 700 euro, per 700 euro non era per tutti, capito? Se considera questo era nuovo, è nuovo, è usato, ma è nuovo, Nevuria è 4-2-400, quindi 3,50 è un affare, dai. È già abbordabile, dai. Un bel solo, ma te si va, è abbordabile. E vabbè, è un po' come hanno fatto con l'S9, l'hanno tolto dalla circolazione l'S9, lo sai, perché aveva un difetto, non so che cosa, lo stavo dicendo sul Roger K. Non lo so, io l'S9 l'ho avuto e fa difetto del frequenzimetro, quindi non mi sono fidato a prenderlo. Capito? Questo è bello, questo ti segna. Sono andato sul canale 80, giri sempre, non cambi banda, giri sempre, giri il potenziometro dei canali. Sono arrivato fino al canale 80 e c'è scritto 27805, è il canale, capito? È tipo WFO, dai, tipo una sintonia continua. Sì, questo adesso lo proviamo in 10 metri, se c'è propagazione, gli attacco l'antenna dei 10 e vediamo. Certo, ci sono i vati, c'è tutto. Io infatti, poi lo possiamo usare, quindi lo usiamo, no? K di Rogero, va bene. Adesso ti fa la vetrina, amico, tutti gli apparecchi. Vetrina, non è vostra vetrina, no? Io sto facendo l'altra base, poi ne sto aggiungendo un'altra, praticamente dalla L diventa una U, io sono in mezzo, e le radio devono essere tutte funzionanti. Ho ordinato un commutatore a 16 posizioni, 8 più 8, fatti il conto tu. C'è un commutatore unico che ha 16 posizioni? Certo che sì. Ho mai visto, massimo lo vedevo sempre a 4. No, questo non è roba in vendita, no, non lo stanno costruendo, non è roba in vendita, questa è roba professionale in costruzione. Ah, ecco, non era possibile perché non l'ho mai visto, ma qui in vendita. Ma perché quello che c'ho io ce l'ho a Fabrizio ce l'ha 10, cosa c'entra? Sei tu che non lo vedi, ma vai a vedere quelli CB, io c'ho Ameritrong, non roba americana, il mio era 5 posizioni, quindi, ma non mi basta 5, l'ho ordinato così, uguale a quello sempre dell'Ameritrong americano a 8 più 8. Devono funzionare tutte, non aggiunta, stacco oggi quella lì, come fa qualcuno, no. Io voglio usare questa, adesso spengo questa e accendo l'altra, voglio usare, spengo quella e accendo un'altra, adesso è tutto pronto, chi parla? E io invece la stacco, vado dietro, svito il piede e la metto nell'altro, perché ce l'avevo e andato in corto, mi faccio andare stazionare, mi fa uno scala, stavo in fattendo, ho cambiato spezzone, ho cambiato questo, ho cambiato l'altro. Poi mi è venuto in mente di staccare, di mettere in linea diretta, a casa non siamo più stazionati. Io ho sempre detto che la strumentazione vuole professionale, spendi un po' in più, però vuole professionale. Io non voglio neanche avere dentro l'armadio di roba della ZG, né commutatori, né rosemetri, né wattmetri, è mondessa, capito? Un po' il 700 della ZG ad aghi incrociati vanno bene, ma gli altri sono tutte coglionate e cagate che non servono a niente, nulla, ci vuole roba seria, perché se disgraziatamente hai un commutatore d'antenna che non ti chiude e c'è una radio accesa, lì entra la radiofrequenza, ci butti la radio secondo la potenza che stai usando, capito? Io c'ho quello io c'ho la T230 della Kenwood che fa commutatore d'antenna a tre vie, a tre, fa rosmetro, wattimetro e accordatore d'antenna, ma è della Kenwood, però quando io chiudo, che passo da antenna 1 ad antenna 2, chiude, lo smitter non si muove nei baracchini, hai capito? Deve essere una cosa seria. Ma io ti lascio che mi sta addormentando, va. Spengo, tanto non c'è nessuno e accendo più tardi. Ci sentiamo, dai, vi faccio una pinichetta. Ciao, no, io sto sistemando qua, c'è un mare di roba per terra, devo sistemarla, se no mia moglie mi si cuore di volo, vai. Ciao Gianni, ciao. Ok, ciao Gianni, sono entrato adesso, ciao, a più tardi. Ciao, Alfa 21, vai a sentire. Ma tu non vai a riposarti, non vai a fare niente, sempre attaccato alla radio, sì. Oh, non mi posso appassionare alla radio. No, devi andare a studiare. Secondo te perché sono entrato tardi stamattina? Perché mi sono fatto tutti i compiti prima. Ah, così è? Non lo so io, non mi dire bugie, mi. Se no lo dico a Fabrizio ti faccio portare via la radio, Io non dico bugie. Va bene, ok. Allora ci sentiamo stasera. Io sto facendo cosa qua, dai. Ciao. Vai a fare DX, vai. Vado a fare DX. E allora vai a fare DX, qua ce l'hai a fare quella radio, a guardartela. Vai nei canali alti che già c'è gente, vai, gira il VFO e vai. E adesso vado a cercare qualcuno. Ci sentiamo dopo, Riccardi, ciao. Ciao Claudio, a dopo. Allora, vediamo l'ultima prova qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfetto, dai, ok. Ciao a tutti, buon riposo e ci sentiamo più tardi, ciao. Passato un'ora. Sì, magari ha trovato traffico. Cercati più bassi da me. passaggio. Così che da peschiare, meno, meno. Una via di mezzo, là, di mezzo, là. Così va meglio, va meglio. Va meglio. Sì. Ok, lo chiudo così, ce la prende in culo. Prende in culo. Il 3x40 è il cazzo, la prodotto, della Midra, della Polma, la Polma. Ci ho messo il DM1000, l'unico che va bene, l'unico che va bene. La, cioè l'F10 non serve un cazzo, serve un cazzo. Però questo va un po' meglio, va un po' meglio, va un po' meglio. Meglio così? Ho saltato il microfono, mi ho messo le cose, va fatto, va bene, già me la sono spiegato. Mi sa che metterci la griglietta, per chiudere lo spinotto, va bene. Va bene così, basta averlo regolato, c'è problema, c'è problema. Fabio ci sei? Fabio ci sei? Fabio non c'è, Fabio non c'è. Evidentemente deve essere uscito, uscito. Lo lascio così là e io. E va bene anche a te o. Lo lascio così, lo lascio così. Ah, vado servo. Mi metto la griglia, come si chiama, siamo a posto. Sono uscito. Sei uscito? Ah, già sei qua, ah, già sei qua. Come sono DM1000, come sto uscendo? Sto uscendo. Ho bisogno di sentire anche un altro che parla, così ti faccio un confronto di livello. Come audio sei buono, l'eco è buono, buono, va anche bene così per modulazione. Non capisco il livello perché ho separato il volume. Ho regolato il livello dal microfono, all'interno. C'è un trimmer. Perché se lo sollevo fischia, la cassa. L'unica cosa è il livello che ho messo io, però a meno rende. Ecco qua, sono distante, stiamo guardando dalla capsula, guarda un po', guarda un po'. E così sono vicino. La modulazione sembra chiara, mi sto ascoltando col l'alto. Naturalmente c'è l'effetto vattato sempre, perché si nota. Però con l'eco si nota molto di meno. La modulazione sembra chiara. Ah, con la radio non c'è male. Facciamo arrivare qualcuno, c'è qualcuno ascoltando, un passaggino così per capire la differenza di livello. Tuccari, Abisese, cambio. E io sia qua sono. Cappa brioche, là. Ho collegato la Gigio, per visto la foto. Ti ha detto di buon riposo, che? Mi ha versioni. Tucca. Ciao padre. Ti volevo prestare questo, okay? Complimenti, te li faccio una volta al mese e te li faccio oggi. Magari domani lui mi faccio un salto. Aspetta. Vaffanculo, aspetta, scusa un attimo. Stavo dicendo, mi faccio un salto, ti volevo prestare il, come si chiama, quel microfono a provare su quel typhoon. Ma domani non ci sono, perché viene Marina a prendere, devo andare a fare la spesa. Tutto il giorno facendo spesa rimani? No, viene, non so che la viene, a prendermi, poi mangio lì, e poi sto un po' con lì come mi accompagna, capito? E ti mai via, arriva, va bene allora. Anche sabato se vuoi. Ci becchiamo Massimiliano, così facciamo tutto. Ehi, era giusto per vedere se andava meglio, allora, tutto qua. Va bene, ok, così ti posso avvicinare anche volendo se vuoi, quell'accordatore per abbassarti leggermente le stazionali e gabagaba. Oh, ma tanto guarda, adesso mi devo organizzare magari una domenica che non vado in campagna, così faccio quel lavoro con Luca, tanto lui c'ha quell'aggeggio, no? Non c'è manco bisogno di venire qua a fare metà la antenna, provvisoriamente, là. E poi la lascio così, non la butto manco giù, è un casino, grazie Massimiliano. Se no lo faccio magari a questo settembre, così la butto giù, dato devo cambiare il palo. Roberto poi mi ha dato un consiglio di cambiare le staffe, di mettere una specie di barra nel muro con il tassello chimico, e poi mi salda dove c'è l'antenna, no? A questa piastra, no? Barra, piastra. Vabbè, allora fatela attarare, ti metti la scala, ti regoli la molla e sei a posto. Infatti, così voglio fare. E allora andava bene me la. E intanto non lavoro neanche domani io, che di là dove lì a Mesirios sta piovendo. Dottore Valetta, mi ha mandato già giamba, mia domani giamba, la settimana bella ho messo. Avanti. pronti, chi è? No, Massimiliano. Ciao Antone. Mi sto usando quel panacchino, omologato, col DM1000, l'unico che forse va meglio. Andalo, a voglia. Sì, anch'io ne ho due, ho uno Zeus, bellino, c'è anche le frequenzimetro, più o meno come quello lì, dai, occhio e croce, c'ha le bande per la Germania, Polonia, tutti i cose, là. Sì, infatti, l'unica cosa che non c'è è l'LG. Beh, c'è Carlo lo prende, l'unica cosa è tenere così come l'apparecchio e basta, Va bene, adesso voglio ho collegato il DM1000, adesso mi metto la grida, come si chiama? Ho regolato il stream del microfono dall'interno, dall'esterno, così, perché se l'aumento di amplificazione fischia è talmente forte che mi sento la voce mia dentro la cassa, No, questo invece ce l'ha il trimmerino per LC, il VR4, ma non lo do, lo lascio così, perché da 4 watt di portante bianca e 8 modulati, il picco massimo di modulazione. Questo ha due cose per la potenza, per bisogna fargli un poticello, ma non lo tocco, lo lascio così com'è, lo lascio vergine come l'ho comprato. L'unica cosa è che ci metto questo microfono che è molto meglio di quel bidet che c'è come microfono normale, che pare una scatola di tonno sempre, ragazzi. Vabbè, cosa ci devi fare? Davanti ho Lugaria. No, io già ne ho due così omologate, c'ho un Venus e uno Zeus. Uno là mi ha mandato la foto, l'ho mandato a te, però non mi ha mandato nessun codice. Ah sì, mando un messaggio, poi se me l'ha spedito. Beh, se te l'ha spedito ti devo mandare il numero tracking. E ma tanto oggi è mercoledì, da dove arriva questo, Lu? Da Roma. Da Roma, se lo riesci a spedire oggi, venerdì ti arriva, se no lunedì. Beh, adesso gli ho chiesto se l'ho già spedito. Se spedisce oggi, però sì che ti arriva venerdì, perché parte stasera, domani, dopodomani mattina è consegna, quindi venerdì mattina ti arriva. Se non parte stasera ti arriva lunedì. Comunque dai, non ti preoccupare, già arriva. Scatola non è, vero? No. Vabbè, pazienza, importante che sia nuova la radio, ma la radio è nuova. È bella, quella che si è preso qua è bella, nuova. Aspetta a vedere. Beh, allora, nel caso mi mandi il codice per rintracciare. Cosa? Gli ho mandato un messaggio, mi ha risposto, là. Nel caso mi mandi il codice per rintracciare il pacco. E devi scrivere, mi mandi quando spedisci il numero tracking, così devi scriverli. Sì, vabbè, è amate si goza, Massimo, nel caso mi mandi il codice per rintracciare il pacco, è amate si goza. Vabbè, ti ha risposto, ti ha spedito? No, mi stava scrivendo, vediamo. Ah, ok. Intagando la mano in gruppo, qua sì lui, non l'avevo preso. No, lasci là, la gente, cazzo, una volta che ti mando il tracking, devi aspettare quei giorni lì. Tre giorni ci mette a arrivare. Se riesci a spedire oggi, ti arriva venerdì, se no devi aspettare fino a lunedì. Dopo lunedì puoi iniziare a stressarlo. Vabbè. Ciao, il corriere passa domani, comunque ti mando la foto della spedizione. Allora, passa domani parte, venerdì, lunedì metti arriva, dai. Vabbè. C'è una letta questa fretta. Vabbè, la voce è pagata, la bressa viene da sé. Se riusciva a spedire tra ieri e oggi ti arrivava in settimana. Però in genere ci vuole tre giorni lavorativi, quindi domani, venerdì e lunedì in consegna. Sì, mi ha mandato la foto del pacco, là. C'è il nome e cognome mio, c'è a vedere. Sì. Destinatario. Ok. Poi vabbè. Sì, là, tutto a posto. E il microfono che cos'è, Lu? Il microfono è... Allora, Dell me l'ha detto... Aspetta che guardo il messaggio. Mi sembra di un Intec quel microfono. Comunque, per stare uscendo bene, va. Sono passato stamattina lì vicino... Anzi, veramente da Giubulovito, ti ho suonato, però tu sei mezzo gigo, vale. Allora, il microfono me l'ha detto, è Dell... Aspetta, non è scritto, è la Fayette, mi barico. Portate funzioni bene. Adesso metti alla ricerca di un buon microfono o lui. E le MP4 di aggancio, di Mongassa, del Jackson questo microfono. Quale? Questo che mi sta spedendo, che mi ha spedito, del Jackson. Vabbè, sul Typhoon cosa li metti? Adesso lo conservo, mi faccio un ricerca e me lo conservo. Ah, non usi più? No, ho preso quello, ma familiare. Ma cosa ti occupato a fare? A finire dove tra l'armadio. Ma questo qua lo faccio un breccia e vediamo un po', secondo me mi sa che quello me lo prendo. E questo funziona bene il Typhoon, beh, alla fine non ha nessuna anomalia, è perfetto. Scusa, ma per vendertelo portatelo nell'altro QTH, no? Sì, mi devo comprare un altro MV4, dai, se me lo porto giù. Farò così, dai. Vabbè, momentaneamente le metti un microfono normale, così il fine settimana quando vai là, cazzo, ce l'hai la radio, no? Adesso c'è un discorso, vedi, cazzo, a casa tua, sei attaccato a un malacchino, ma le rocchi, sei lunedì, diciamo un giorno, due giorni, là, e te ne stai attaccato a un malacchino, è quello, e me l'hanno fatto anche le studie per questo motivo qua. Allora non puli nulla, non mettere antenna, non mettere niente, buca di tutte via. L'unica cosa che puoi fare è prendi un portatilino, se proprio è. No, nuda Massimiliano, nuda, sono lì, boh. Cioè, devo stare con lì, no? Non mi attaccare al baracchino, no? Poi sono con un paio di gole qui, capito? Io sto così, ma... Non c'ha tutti i turti, eh. Alla fine non ho ragione, non manco tutti i turti. Ma allora io non l'avrei venduto, perché te lo fa fare, scusa? Ma sono dentro l'armadio, è sempre una rete di scorta, o no? Ma infatti faccio così, magari... Dell'altro volevo riparare lo Smith, là. Perché non mi piace come... Questo qua è quello fluido, scende bene, sale bene. Quello là è un po', sembra un po' inchiodato. Quale? Quello modificato? Ancora si va a fare le quattro fotografie, vabbè, va. Mi sa di sì, No, comunque già esce bene, là. Già l'hai sentito che esce bene. Fagli quattro foto, dammi in retta, fatti le quattro foto. E poi cerchiamo una radio un po' migliore, no? Sì, dovrò fare anche un video per farlo sentire. Prima fai un video e te lo metti nel telefono, all'occorrenza lo mandi il video, no? Lo apri quella radio, le fai quattro foto aperte, in modo che vedano anche all'interno, però mica le metti su Facebook. Le foto le metti solo dei quattro lati, capito? Dietro, davanti, sopra e sotto, blu, basso. E niente, le metti il prezzo. Poi chi ti contatta in privato, se vuole, può mandare il video e le foto interne, capito? E si conferma, posso fare anche così? Positivo K Brioche. Mettilo nel gruppo. Io le puoi già fare due foto a metterlo se vuoi. No, va giù alla Massimia, va giù in guarda. Sono domani magari, domani, venerdì. Ma io lo faccio, la chiudi non la giugana, basta, lui smontava, no, lui è attaccata sotto come si chiama, al piano di legno che ho messo, là, al ripiano, dove c'è la saldatrice e tutto quanto, non la giugana, no, Massimiliano, ma così mi pagano i d'oro, va. E vabbè, quando le gano, ti so che la pure lavano. Hai visto la scrivania che mi sono fatto io? Bene, va. Ma come l'ho vista? Se avete mandato la foto verso la stazione, questa me l'ho fatta io. Grazie, guarda. Non hai mandato foto a me. Mi hai mandato il video di stamattina che stai facendo collegamenti e poi la foto del gigetto con l'amplificatore e con l'alimentatore. E poi ti mangi i carabinieri, bello me ti mando. Questa di questa situazione è vero? Totalmente diversa da quella là. Luca, Luca si è fatto. Lascialo fare che gli mando a signor Piras, lascialo fare. E anche io gli mando a signor Pirazzo, 10 milioni, sì. No, proprio sentivo a Luca in 10 metri e... Quando è qui sale a 28.425, ma al momento arriva più forte di spuria che qua in diretta. Vabbè, me ne torno in 10 metri, ciao. Ciao Vito, ciao Tony, ben sentito. Sì, quando è qua passa in AM a 28.425, lo senti più forte là che qua. Con la verità non ci ho fatto la prova, E che io poco fa stavo provando un bambino un po', ma detta X40, l'unica cosa che va bene forse è come microfono è DM1000. Gli altri non può attaccare nessuna altra cosa perché non c'è LC, nulla, così è nato, così deve morire quel barchino. Che la maggior parte sono di omologato, non c'hanno niente, se no non è normale che siano solo 20 dB di differenza oltre un megahertz. Vabbè, ci sentiamo, buon divertimento, ciao. Ciao Vito, ciao. Modi X, Vito. Sì, c'è un po' di esporadico, ciao. lì forse il 27 c'era di più di propagazione, poco fa era pieno, spagnoli, francesi, tedeschi. Sì, sì, roba europea. Ciao, ciao. Ciao, Vito. Hai visto la foto, Lugaria? Non l'ho visto. Ali. Dimmi. Ho detto stamattina, ciao a Vittorio anche, stamattina sono passato vicino a casa tua, sta giusunato, manco un riposo hai, con la busta dell'Erospia tra colla, dove stavi andando a fare il carico? Dell'Erospia? Non ci sono andato all'Erospia stamattina, no? Ho capito, la busta quella celeste. Quando mi stavo sedendo con Fabio Master, non stavo andando allo spin, stavo andando a fare altre commissioni, lo spiegava l'altra sera. Eri a piedi, ti ho visto vicino al bar dei Soni, a me, per farti capire, ero lì. Sono passato, giusunato, desiderato, però, vabbè, forse non mi hai riconosciuto, è andata bella. No, non ti ho riconosciuto la verità, perché c'era un casino, dopo che sono andato tu, sono andati due, c'era i curelli, uno con l'altro c'era i curelli, di fronte al Conti. No, vabbè, io non mi stavo sbattendo nessuna parte. Luca, hai sentito che quella radio te li spuri, eh? Che radio? La tua, ti sente a 28.400, Vittorio. Ma qua, è 48? Ma dai, fuori. Così ha detto, no, lo pompo. Ehi, a 28.425, dice che ti sente meglio lì che qui. Ma questo non l'ha chiamato adesso o quello modificato? Io penso che sia questo, non lo so, mi ha detto così Vittorio. Poco fa. Boh, Vittorio, ci sei? Manda spugna, adesso. È entrato adesso, l'ha detto qua, che ti sente più forte a 28.425 che qua in 27. Sono anni e anni che lo uso, non lo so. Magari che lo facevi poco fa, mio. Io lo sai che quegli apparecchi là modificati, quelli là, sono dei lavandini, capito, che ancora erano da tipo la fontana di Trevi. Stavo perché non l'ha detto a me? Stavo facendo, ma tu non hai risposto, non c'eri. Hai capito? No, ma ho sentito, ma se non avrei risposto. Mi è stato, ti ha anche chiamato, sono andato. Ti ha fatto una battuta dopo che sei sparito due secondi ed è entrato lui. Quindi te l'ha detto infatti che tu magari non hai sentito. Provalo. 1, 2, 3, prova radio, 1, 2, 3, prova radio. Prova. Ma io a 28.425 non ti sento, poi. E non ce la siamo troppo vicini, E allora adesso. Prova con l'altro a vedere. Luca, provare con l'altro a vedere. Sta con l'altro, Massimiliano, proviamo. Prova, rimango qua io a vedere. Guarda un po', 1, 2, 3, prova radio, 1, 2, 3, prova. No, io non ti sento. Non lo so, se mi posso fare. Quello là alla fine non c'ha niente. È questo che è modificato. Ma non lo so, è entrato qua, l'ha detto lì. Se ti sente meglio in AM a 28.425 che qua, in 27. Poi, quello che ha detto ti sto dicendo. Io ci sono andato e non ti ascolto. Poi non lo so. E vabbè, sono anche vicini, Luca e Vittorio sono vicini, cazzo. Da dove lui a Vittorio saranno 500 metri di aria, non di più. Ma un attimino Massimiliano, se c'è solo portante là. Come? Là, la frequenza 4.25, sia c'è solo portante. Come? È schiacciato. Massimiliano. Pompo. Dimmi. Ha detto che c'era il portante per vedere se arrivava qua. Ah, cazzo. Io ho 4.25 con questo baracchino, non ci arrivo. Con l'altro sì, con l'altro posso andare in Liguria. Ma con questo, a 315 mi fermo. Massimiliano. Ehi, c'è già portante di là. Ho già fatto. Non arrivi qua. E dove ti dica? Praticamente il 10, là, in banda F. Così fa? No, canale 10 in banda F. Penso di sì, aspetta. Oh, vedo casino. E siete vicini là, anche con Vittorio, il discorso anche quello. Capito? Io sento, per dire, quando parla coso, Roberto Quadrato, lo sento meglio in un altro canale, che ce lo sento abbastanza bene in un altro canale con Kim. Quindi, ma non è che devo perseguitare il baracchino, purtroppo è così, siamo vicini e a volte le ammoniche ci sono, tutto se lo vedi di sopra la televisione, quello allora è preoccupante, cioè che scaccia importante e a un certo punto sparisce il quadro. Allora io sento a Claudio, a Roberto, a Marco Condo, leggo i pigli, eppure se devo ti dire, ma li sento chiari chiari invece, mi sposto di canale. No, Marco lo sento, io sento Roberto, Claudio, la verità abbattimento non me ne fa, ha sentito chiaro chiaro come Roberto, a Roberto proprio lo sento chiaro chiaro come la 87. Devo ti chiamare, mi dispiace, però non so cosa fare. E vabbè, non è quello, va bene, basta. Quando entra glielo chiedi, anche perché tu non c'eri. Non so cosa dirti. Già, magari già entrerà e te lo spiega cosa ti dica. Io non ti sento comunque, Lu. Allora io devo andare in banda G per essere a 28 qua. Sì, ma 28 315, il discorso è quello. Quanto è 25? Sono due canali in più. Non ci arriva, capito? Dovrebbe essere in banda G. Vabbè, comunque 50 euro li ho recuperati. Ma se devo recuperarne altri, così mi recupero i soldi da baracchina. Ehi Antu, se è bello, va bene. Sì, sei arrivato da 5 a 8. No, è pulito, è pulito. Non so se ti ascoltano gli altri. Boh, Pomponio, lo senti Antonio? 9. Sì, segnale 9. Sì, 5 perfetta, chiara. Ma con chi state parlando? Antonio, c'è Marco, non so se ti ascolta Massimiliano. No, non l'ascolto io per niente, se non siamo in antenna. Ciao, ma sì. Massimiliano, già ti sente Antonio. Riserva, riserva. Ollu. Eia. Ma da dove stiamo arrivando? Da casa sua. Davvero? Che se ne è scoperta che fa? È sempre dal monte. Che se non arrivi no, che mi pare strana la cosa, buh. Siamo avanti, la vaga, cazzo, lo vacculino di Antonio, vamo in antenna. Che strano mai, uno non lo so, vabbè, va. Io lo sento, ma insomma già lo sento. Antonio Riserva, buonasera. Ciao Massimiliano. Ciao a tutti. Ciao, ciao Ollu. No, io non lo sento per niente. Sì, Santiago 5 ti sento oggi. La volta scorsa non ti sentivo proprio niente, niente, niente. Oggi ti sento. Santiago 5 alla radio con 3 di 3. Comunque, comprensibilissima tu. Vabbè, ci siamo sentiti al telefono. Sì, sì, me l'avevi spiegato tu. Tutto bene, va bene. Non c'è fretta, ci mancherebbe altro. Vai, Massimiliano. E a me, io Antonio non lo sento, là. Comunque se mi sente lui io lo saluto. Sì che ti sente, lui l'ha detto poc'anzi che ti sentiva. E ma niente che lo dice lui quando io non l'accoso. Quindi non lo so, capito? Lo so, Massimiliano. Quello già è vero, ma comunque, no, per rispondere a quello che tu hai chiesto, lui ti aveva già anticipato prima ancora, capito? Va bene, ma già di media Antonio, non è un problema. Non è che vuoi per qualcuno, 10 mesi che viene sull'antenna e ancora non la usa. Oh, io ho 2 antenne e non ascolto, né con una né con l'altra. Questa è la più alta che ho, con l'altra zero completamente. Oh, ma arrivano tutti, ma cazzo mi arriva Giuseppe Tornado che ha l'antenna dentro casa, mi arriva Santiago 7. Oh, il Cantullo non mi arrivi, non lo sento niente proprio. A dire che lo sento Santiago 1, zero completamente. Sì, ma ti credo, Massimiliano, ti credo, anche perché ieri mi sembra, avevo avanti ieri, infatti io l'ho contattato telefonicamente e non lo sentivo proprio, e lui stava parlando con altri e io proprio non lo sentivo, ma oggi invece riesco a sentirlo discretamente. Santiago 5, però la radio è anche buona, non è fortissima, però è abbastanza pulita, chiara. Avanti Riserva. Lo so, tu hai quella Tornado, come accidentaccio si chiama quella con l'antenna lì, io già me lo ricordo, ma con l'antenna io, per quanto ne so io, Antu, è un'antenna da barca, perché usufruisce del piano riflettente del mare, ma a casa non è indicata di sicuro. Va bene, dai, ma già lo sai, non c'è bisogno che te lo insegni a te. Tra l'altro sei anche appartenente, anche se vogliamo, all'elettronica, per cui non è che hai bisogno del mio consiglio, ci mancherebbe. Va bene, dai, facciamo girare. Avanti Luca. Ehi, ehi, là. Mi sono fatto in freezer e mi sono preso un pezzo di gelato, là, amolo se come niente. E tirami giù. Da un po' con il caldo, ya. Vabbè, avanti, buon po'. Ehi, ciao Giulio, ben sentito, salutore, come va? Bene, bene, Antonè, va bene. Ehi, stamane ci siamo divertiti, tu non ci vedi, peggio per te. Abbiamo fatto una mattinata intera di ex, io, Massimiliano, Claudio, Riccardino, Luca, Lubrefetta, tutti ce l'avamo, solo tu mancavi. Si chiama Lubrefetta, non Prefetta, Lubrefetta. Noi vogliamo Lubrefetta, anzi vogliamo il sindaco della Sardione. Buonasera. Buonasera avanti, ribellagnolo a tutti quanti. Ciao Giulio. Ciao Natalino. Ah, c'era anche Natalino stamattina, anche lui ha fatto collegamenti, per cui eravamo tutti alla grande stamattina. Vai Massimiliano. Ma tu te rendi conto, Giulio, come qualcuno di Natalino arrivi tu, cazzo, con una scatoletta di sigaretta arrivi tu, 9:30 a Cattaria, cazzo. Guarda, Massimiliano, già lo sai, meglio dire, con l'RF, la radiofrequenza, per così dire, per così chiamata, non ha limiti, alle volte puoi avere anche un pezzo di fil di ferro, puoi avere sul tetto e riesci a sorvolare lettere, perché no? Siamo arrivati allo strato chissà quale, boh, non lo so, a quale strato ionosferico eravamo stamattina, ce l'avamo tutti, tutte niente, a nove dosi, nove vince, boh, è così, il mistero della radiofrequenza, Massimiliano. No, è che mi si è asciugata l'antenna, prima era bagnata e non usciva così. Quanto si è asciugata la galla? Mi, Antonello è cotto. Guarda che ho messo il DM1000 in quel baracchino, la Parì, che è l'unico che si è andata bene, l'ho agganciato poco fa. Il DM1000? Ehi, al DM1000, è l'unico che va bene. Cappa. Sì, vabbè, là. Io sono col microfono normale adesso. Bene, va. E a voglia che va bene. Quindi ho cacciato poco fa in quelle Pullman ZX40, l'unico il DM1000. C'è la regolazione del trimmer per la modulazione all'interno, perché se non so che male si affisca il baracchino addirittura, si sente la voce tua, tipo, come ti posso dire, è piagua, diceva quella, la bisogna e la bassa appena appena, ed è perfetta. Cappa. Bisogna procurarlo un DM1000 a vedere se riesco a farlo andare. E l'unico è quello. Io l'ho agganciato poco fa e mi funziona bene. Cara, perché io ho l'M93 e non c'è nessuna regolazione dentro, più di quel tanto non amplifica. Lo so, io ci ho messo l'F10, figurati, faceva schifo. Cappa, vabbè. Ehi, un po'. Sì. Allora io qua c'ho un F, esista, utilizziamo, Ghito. C'ho un F16 della CTE, ok, di quelli che hanno il bip e roba del genere, no? All'interno l'ho aperto per metterci la batteria e in poche parole hanno tagliato, anzi dissaldato addirittura dalla parte del circuito amplificato, hanno staccato i fili positivo e negativo e non so dove vanno collegati. Tu sai qualcosa? Bisogna che ne trovo uno di quelli lì, mi sembra di averci un F16 io. In questo momento non mi ricordo dove va agganciato. Vabbè, uno va agganciato, come si chiama? Dove c'è la portante, in pratica, dove c'è il pulsantino, va agganciato diretto lì. Una volta che schiaccia si accende il LED rosso, si accende, una volta che colleghi anche la massa. Quindi il problema è che non mi ricordo qual era il piedino, hai capito? Siccome lì ci vuole il pulsantino, mi sembra sì, da una parte sì dall'altra. Io controllo adesso e poi ti faccio sapere la guarda l'F10, tanto dovrebbe essere uguale. Ma hai capito cosa ti ho chiesto? Cosa rientra pulsantino, PTT? Mi serve vedere dove vanno collegato il positivo e il negativo della batteria. Boh, basta. E tutto il resto è tutto collegato. Ti sto dicendo, va collegato al PTT. Hai capito? Un filo della batteria va collegato al PTT, va collegato. Se no non ti rimette al circuito. L'altro va collegato alla massa. Il circuito stesso, capito? Allora adesso non mi ricordo, mi ha creato il mio F10, ti so dire dove agganciare il più al piedino, quando gli metti la batteria si accende il LED in automatico. Se no, se tu lo colleghi così la batteria si scarica naturalmente, no? Devi dare tensione, quando schiacci il PTT, dà tensione al circuito. Dopodiché, una volta che è mollato il PTT, il circuito va in cosa chiude, hai capito? Non ti dà tensione. E allora se capita che ce l'hai uno, magari metto il tappo di dietro e mi mandi una foto come va collegato, così me lo collego, che me l'hanno regalato, sono andato, gli ho fatto le connessioni, ho attaccato perché giustamente me l'hanno dato anche senza lo spinotto, capito, per la radio, gli ho messo lo spinotto, collegato qua, va a mettere la batteria per provarlo, apro, grazie, c'è, sì, la farina dove attacchi la batteria a 9 volt, però senza fili, quindi non so dove vanno collegati, mi capito? Già ti ho capito, così lavora anche il coso, l'M300, d'altronde, hai capito? Va bene, te lo quando ti mando la foto, beh, così vedi dove è agganciato, e glielo salti, il più, poi il meno, non sai, va agganciato alla massa del circuito, che poi fa giro con la calza, tipo l'M300. Sì, vabbè, tu mandami la foto bene dove si vede che dove è collegato sia il nero che il rosso, poi per saldare e fare già mi arrangio io, va? Ok, vai Lugarie. Positivo, K. Sì, ahi, andava, là. Se mi sentite, sì. Sì, che ti sentiamo. Andava. Adesso, sento a Vittorio. Questo per sapere se mi senti ancora anche con questo. Prova magari a fare uno squillo e te lo dice lui dove ti sente, no? Magari c'è qualche armonica che va a finire lì, capito? Secondo come è un macello. Avanti, Giulio. Cosa tu? Tu mi sentivo a 28 e non con questo, con l'altro. Col Typhoon. A 28 e 28 425. Questo qua è la scheda accolta. Con l'altro mi sente. Va bene, dai signori, io mi sgancio per un po', da una mezz'oretta, poi al limite riprendo, là. Se c'è qualcosa magari mi mandi qualche messaggio a WhatsApp. Se dopo, dai, avanti Giulio, non so se sta parlando Antonio, ma mi deve scusare se le parlo sopra perché io non lo sento, ok? Ok, no, non c'è nessuno in questo momento. Sì, infatti poc'anzi non ho ripreso proprio perché sono intervenuti loro, hanno fatto prima di me. Sì, va bene, ciao Massimiliano, a stasera magari, più tardi se coincide facciamo due chiacchiere, così completiamo la giornata anche oggi, va bene? Sì Giulio, sì, no, mi sdraio un pochino che sono un po' mal di schiena, capito? Mi sdraio, ma proprio così, mezz'ora mi basta, mi sono letto così, adesso mi accendo Sky, mi guardo qualche piccola gara di MotoGP o di Formula 1 dell'anno scorso, mi basta una mezz'oretta e poi riprendo, là. Tanto ce l'ho qua vicino la radio, già vi ascolto comunque. Ok Massimiliano, a stasera più tardi allora, dai. Avanti Antonio Riserva. Ai Giulio. Antonio Riserva, non ci sei? Ai Giulio. Ai Donino. Luzzi, mi riconosci subito. Donino. Ehi, mi riconosci subito. Ehi, a che ti vedi? Tu puoi stare, non 20 anni, non sei stata per frequenza, puoi stare pure 50 anni. Io ti avrei sempre riconosciuto, perché purtroppo ho quel ricordo sempre delle modulazioni di tutti, cioè purtroppo mi fa piacere, ci mancherebbe. E non è il solo che ho riconosciuto dopo tanti anni, che è tranquillo. C'è anche, ad esempio, mi tanto per farti un nome così a caso, il padre di, dico Sergio, il padre di Riccardino, sempre un buffone, io mi cesce sempre Robertino, altri che Riccardino. Dopo anni, 20 anni, la voce come minimo l'ho subito riconosciuto dalla voce, per cui nessuno se lo ricordava, io l'ho subito riconosciuto, eppure parlava intanto con una modulazione molto bassa, perché allora non aveva nemmeno l'antenna che ha oggi, per cui ti puoi immaginare, no, me ne ricordo sempre le modulazioni, o Tony. Meglio così, c'era buon orecchio. E te lo ricordi? Non so se ancora vivo, è Luisito, viene Sicilia. A voi già me lo ricordo. Amico intimo poi di Renato. Renato, naturalmente Renato. Renato era morto. Sì, c'era Otto, poi c'era Pozzo, Fezza, Italo Ancora. Tanti ce n'erano, capita. Allora lì, Macallen, era... Rosa Verde, erano quelli che più stavano al baracchino praticamente, la mattina soprattutto, ma Caleb e Rosa Verde, e già come se la B, la mangiano B, loro stavano già bevendo, perché nel caffè c'era sempre anche l'inchiostro alcolico. No, ma erano simpatici comunque, dai, sia Rosa Verde, quando era sano, quando era Gotto no, quando era Gotto era troppo travaganti, ma quando era sano era intanto una persona che sapeva parlare, e lo stesso Macalè è una persona che sapeva parlare, ma altri tempi, Tony. Lo so, Rosa Verde la portanza d'oro, quando venivo sul Cicalino avevo toccato il 54, rompire la palla a tutti. Vabbè, dai, la nera, la venera niente, dai, era pieno prima, alta lena, Renata, Rosetta, mia, niente, cara. Infatti, Rosetta, il marito, non forte, dottor Marino, mi sembra che si chiamasse di cognome, sì, dottor Marino, ha avuto un bel club, Sassari, sì, e non solamente Altalena, Giulli, Intrepido, Luce del Mattino, la moglie, te la metti, no? No, Luce del Cacino, ci chiamavamo, tutta, ah, c'è, carissima, ti metti a sorrere, sa. Sì, vabbè, oh, yeah. Veniva un bel finire lì. Come si chiamava che da Vemmela che abitava e abiterà ancora? Nel palazzo dei ferrovieri in via Pocellana, che parlava sino a tardi, proprio tardi, di 2, di 3, di 4 di Manzano, che non me lo ricordo più, mica aveva parecchi figli. Renata, il marito Uranio, parlava sempre con Rosetta e Altalena la notte. Esatto, Renata, giusto, hai ragione, non me lo ricordavo più il nome, sì. Si facevano chiacchierate a lunga gettata, allora in quel periodo, va bene, dai, comunque, bene, e cosa vuoi fare? E ce n'erano tanti, anche da Porto Torres, ce n'era una marea, ce n'erano di CB da Porto Torres, tutta gente in gamba, Gabriela, Ichisiel, il marito, Toccai, mi ricordo Toccai ultimamente, parlo di qualche anno fa, di alcuni anni fa, dopo che era andato in pensione, perché lavorava lì alla sera, no? Dopo che era andato in pensione, si aveva costruito un dipolo, e abbiamo fatto diversi QSO, però si è ritirato subito in breve tempo, ma comunque diciamo che un paio di mesi c'è stato, si faceva sentire, subito dopo che era andato in pensione, poi non lo so che fine ha fatto. Sono passati anni. Io comunque dai, devo fare quel ritiro, scappare, che ho una vita del lavoro. E ce l'ho sulla piazza dei Cigni, in quella zona lì, insomma, l'una e sole. E da dove abito io nella là, ci vuole buona bolla, 20 minuti. Ok, dai, salutami qua, me, ci sentiamo alle prossime, stiamo bene, salutami ci ricorda che c'è ruota. Ok, ciao Tony, alle prossime, dai, sì, c'è Antonello Pomponio, ci dovrebbe essere Luca, e c'era anche Antonio Di Selva, e poi lì c'era Massimiliano, ma è solo all'ascolto perché si sta riposando. Vediamo un po' se c'è ancora Antonello Pompugno, vai Pompu. Ciao Tony, stavo di io ho detto la rappa, vabbè, poi c'era anche Luisa, se ti ricordi, e la figlia che era al magistero, ti ricordi? Mario Cunirato? Ho detto Luisa, c'era e la figlia che modulava. No, ma io mi ricordo di Mario Cucchi di Gatto, il figlio di Nonna Belarda, ti ricordi di Nonna Belarda? Sì, già me lo ricordo, già me lo ricordo. Mario, quello è tipo altino di statura, con gli occhi celesti, è per quello che si aveva messo il nominativo Cucchi di Gatto, perché aveva gli occhi celesti. Capito. No, io mi ricordo anche di Luisa, quella che abitava la vicina del magistero, ti ricordi? Che facevano la custodia, lei il marito e poi abitava la figlia, capito che io avevo conosciuto lì di fronte, c'era anche la veterinaria, figurati tu. Mi avevo conosciuto, ma dopo tanto tempo, figurati tu. Poi non l'ho più visti, non ho più visto, ma lei, allora, ho capito che evidentemente in pensione, non lo so, hanno cambiato casa. Non lo so Antone. Quante ne sono passate allora? I numeri ormai che se ne ricorda più. Non me ne ricordo più tutti i numeri. Sì, ancora qualcuno sì. Magari se sento la modulazione è capace che mi viene in mente chi sono. Però i numeri ormai non me ne ricordo più. A tenere in mente tutti quei numeri. Ne dico mille il nome. Ne uno, 5.000 come minimo, per carità. Vabbè, dai, Luca. Sì.